24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E i ministri messi lì, capi commissario dell'Unione Europea dal 99 a oggi dovrebbero essere processati e messi in galera. Oggi abbiamo un bufoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta, fa i nomi, non fa i nomi, uno che non fa neanche i nomi al suo partito, viene da noi e dice fa i nomi, dici i nomi, e allora tu non accetti, andate a fare il culo, bene! Bravo! Ci siamo! Bravo! Scusate, scusate! Ci mancava, ci mancava. Al vai a fare in culo era un gran classico, si sentiva che era lì nella voce di Grillo, un po' sempre più concitata, sempre più fremente, c'era ed è arrivata, alla fine è arrivata. Siamo qui e siamo all'alba della 91esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Oggi giuro, ve lo giuro, sul Corriere della Sera c'era scritto un titolo Italicum, oggi voto decisivo. Giuro, ve lo giuro. Perché poi si vota un emendamento che è importante, e quindi non succederà nulla. Non pensiate oggi di andare a letto questa sera avendo una legge elettorale in tasca nuova, non pensatelo neanche per mezzo secondo. È un voto di un emendamento, e quindi decisivo per il Corriere. Siamo qui, ci svegliamo in questa giornata di lunedì 26 gennaio con la Grecia in mano a Tsipras e dunque l'estrema sinistra, e succederà qualcosa in Europa perché Tsipras non vuole cancellare il debito pubblico, vuole ripristinare welfare gratuito, tipo elettricità e gratuita ai poveri. Trasporti pubblici gratis, vuole rinegoziare tutto con la Troica. La Troica sono figli di Troica per Tsipras, e quindi insomma già l'Unione Europea ha convocato la riunione d'urgenza oggi. Mario Draghi, si incontreranno lì per cercare, i tedeschi già che urlano la Grecia rispetti i patti, anzi la Grecia rispetti i patti. Invece qua succede qualcosa di importante, forse per molti il riscatto parte dalla Grecia, il riscatto anti-europeista, anti-rigorista. C'è la migliore battuta, devo dire, di Civati questa volta, colui che ha evocato per la 3843esima volta la scissione negli ultimi tre mesi, ma ha detto ora Renzi si farà chiamare con il TS come Tsipras, Renzi. Questa non è male, Renzi. Vabbè, sono le 6:30 minuti, ci siamo svegliati anche con uno scudetto già assegnato alla Juve. Close campionato... ha capito tutto, entra in area da solo, Close! Non sbaglia, 2-1, partita capovolta. Peter Vescovè, tu ti fai un po' del male, eh? Tu che mandi in giro su Twitter i tuoi selfie con Salvini. Ieri era a vedere l'hockey su ghiaccio, ha incontrato Salvini. Dovete vedere Peter Vescovè tutto sorridente a fianco a Salvini, si è postato su Twitter. Close ha capito tutto, entra in area da solo, Close. Sì, abbiamo capito anche noi. Non sbaglia, 2-1. Saluto subito Federico Novella, campione d'Italia per la... che numero, Federico, buongiorno. Che numero siete arrivati? Buongiorno a tutti, ma c'è ancora tempo, dai, c'è ancora tempo. Dai. Abbiamo saldamente in mano la classifica, insomma. Più sette. Qui noia, il campionato di calcio già finito a gennaio, ma vi rendete conto? Che noia. Senti, scusa, c'è Alessandro Robecchi che dice meno male. Io dico meno male che c'è l'Inter. Secondi dalla fine. Può andare sempre male, può andare tutto male, ma tu hai una certezza: c'è l'Inter, c'è sempre l'Inter. Vi consolate a vicenda voi? Abbastanza. Siamo pari. Noi infatti siamo in mega crisi. Quanti punti avrà più di noi l'Inter? È a pari del mio. Vabbè, come avete capito c'è Federico Novella pronto a condurre Mattino 5 insieme a Federico Panicucci dalle 9. Di che parlerete? Chi lo sa? Ma parleremo di cronaca, facendo attenzione a queste donne un po' violente ultimamente, sia le maestre violente che le infermiere violente. Allora vado un po' ad approfondire, che sta succedendo? Alle donne, capito? Che succede a queste donne? Va bene, chi lo sa. Mentre Alessandro Robecchi, la tua giornata come si svolgerà dopo che abbiamo messo giù alle 7? Potrai tornare a dormire? No, si lavora, oggi devo correggere un po' di bozze, guardare delle cose del libro nuovo e scrivere dei testi dei giornali, eccetera, eccetera. E quando esce il tuo nuovo libro? Questa non la so. A metà marzo, più o meno. Così, più o meno. E di che parla? Cioè, cos'è? Un giallo Cervellerio. Che bello, grazie. Me lo compro e poi ti invito. No, ma infatti. Della giornata, io li ho detti, diciamo. È iniziata così. E poi leggerò qualche cronaca dalla Grecia. Che devo fare? Dalla Grecia, no? di Renzi invece? Sì. Di Renzi leggerai qualcosa? Sì, ho visto che tutti ieri molti esponenti del PD si sono molto congratulati, che è bizzarro perché loro mi risulta che stavano col PASOK che ha preso il 4% sì, dici? Ma attenzione, perché c'è il dramma già della sinistra, perché Renzi ha chiamato Tsipras e quindi pare che Renzi abbia chiamato Tsipras e un capo di governo chiama l'eletto. Questo non mi scandalizza, diciamo, mi fanno un po' più ridere i suoi giornalisti che fino al giorno prima la sinistra populista ideologica orrore, parolaccia, e poi il giorno dopo bravi, eccola. Sì, un po', va bene. Siamo tutti pronti a saltare sul carro, il carro greco del vincitore. Pensa, pure se in Grecia. Quindi siamo tutti Tsipras, non è già partito? L'hashtag. L'hashtag. Sgridarti, mi devi sgridare. Perché la sinistra estrema? La sinistra. Va bene, prendo. Ho detto estrema sinistra. Hai detto estrema sinistra. Perché c'erano quelli anche di Alba Dorata che hanno vinto e hanno fatto il 6%, 6%. Allora mi è venuta così. Quelli di Alba Dorata all'europeo avevano preso il 9%, quindi sono calati di 3 punti. Quindi siamo contenti, i neonazisti sono solo al 6%. Possiamo esultare, Roberto. Una modica quantità di neonazismo, quindi anche allo 0,6 ci fanno anche allo 0,1, però. 3 punti, diciamo. Va bene, e mi becco il primo rimprovero perché ho definito estrema sinistra Siriza, il partito siete così poco abituati abituati a vedere la sinistra. Ma che siete chi? La chiamate estrema. Ma siete chi adesso? Ma Federico, tutti voi poteri forti, capitalisti, voi del Sole 24 Ore, voi capitalisti. Vabbè, attacca così. Allora, però, che succede? No, adesso il tema è molto serio. Che succede in Europa? Perché io ho letto già su Repubblica. La Repubblica ha fatto una bella cosa: ha messo quelle che sono le richieste di Tsipras all'Europa e quelle che sono le posizioni attualmente dell'Europa. Praticamente, Federico, è un no, è proprio uno scontro frontale su tutto: no alla cancellazione del debito, no alle misure, cancellare le misure della Troica, no al nuovo welfare che vuole Tsipras. Che succederà in Europa? È difficile dirlo adesso, però io non credo che si vada poi al muro contro muro, cioè qualcuno dovrà cedere per forza, e credo che insomma la Grecia abbia già un trattamento speciale da parte dell'Europa, e adesso comunque con una maggioranza così schiacciante che obiettivamente quasi nessuno si aspettava, comunque sia, su qualcosa l'Europa dovrà arretrare, secondo me. Infatti, qui ci sarà. Non lo so se sono pronti ad arretrare. Alessandro, che faranno? Arretreranno? Ti li vedi i tedeschi? Weidmann, il capo della Bundesbank, ha già detto l'Europa non arretri di un passo, e la Grecia. Però quelli lì dicono: siamo falliti. Cioè, la Grecia è fallita. Però io direi questo: distinguiamo la tattica dalla strategia, distinguiamo le cose contingenti da quello che storicamente potrebbe capitare, perché sicuramente adesso si va a un braccio di ferro, ci saranno frenetiche trattative, qualcuno cederà da una parte, qualcuno cederà dall'altra, però è un segnale che c'è un cambio di rotta, che se un domani non lontanissimo dovesse succedere anche in Spagna, dove i sondaggi danno Podemos molto molto bene, incomincia a essere Grecia e Spagna, due paesi non esattamente briciole nell'Europa, e quindi che l'arrivo al governo per la prima volta in Europa di una sinistra anticapitalista può cambiare le cose. Può essere, è un'inversione di tendenza, Poi sono d'accordo con Novella che c'è un trattamento speciale dell'Europa nei confronti della Grecia, perché quando tagli gli stipendi sia ai lavoratori privati che a quelli pubblici del 35%, tagli le pensioni, tagli la sanità, in effetti è un trattamento speciale. Ecco, è quello il trattamento speciale. Ho capito, ma lì hanno per anni assunto che altro che noi nelle sacche di assistenzialismo per gli statali. Non credo che abbia assunto Tsipras. Cosa c'entra? Tagli tempo. Ma non è che stiamo facendo la colpa a Tsipras adesso. Però Tsipras è in questa situazione. Cioè, sono intervenuti in Europa a dire fate le riforme, perché praticamente erano tutti dipendenti statali in Grecia. No, ma non sono intervenuti dicendo gentilmente fate le riforme, sono intervenuti mandando lì tre signori che hanno detto: tu Milan quanto prendi? Milan, va bene, da domani prendi 700. Hai drammaticamente ragione. Ma che dobbiamo fare se no? Si può discutere sulla cura del medico, ma che il malato fosse malato eppure grave, questo non possiamo metterlo in dubbio. Ma possiamo discutere anche sulla malattia, però. Ma come al solito, poi Alessandro, bisogna mettersi sempre nell'ottica. Allora, mettiti un attimo nei panni di un contadino della Sassonia che deve pagare i disservizi i clientelismi della Grecia di chi ha su. Perché se tu fossi un contadino della Sassonia saresti contento di pagare il dissesto della Grecia? Non lo so, però ti dico se fossi un infermiere greco, scriverei al contadino della Sassonia e gli direi: amico tedesco, grazie che ci hai prestato i soldi. Se però non ci imponevi anche di usarli per comprare le armi da voi, era meglio. È una posizione. È bello. Dalla lettera del contadino della Grecia al contadino della Sassonia, meno l'infermiera. C'è poi un'altra eventualità, secondo me, che la sinistra greca si trasformi improvvisamente nella sinistra italiana, cioè che Tsipras si trasformi improvvisamente in Pecoraro Scanio. Infatti, Cossutta, Bertinotti si fa rapire dalle sirene del potere e sparisce nel giro di 2 anni. La domanda infatti cruciale che sottintendeva tutto questo è: ma come mai Robecchi invece in Italia, la sinistra non estrema, ma la, perché secondo te Renzi non è sinistra ovviamente, la sinistra in Italia invece uno Tsipras non vince? Qui abbiamo Vendola che esulta per Tsipras ed è al 3%, non lo so quant'è. Ma gente che esulta per Tsipras qui ne vedo tanta e mi stupisco un po', perché tutte le politiche fatte sono esattamente il contrario di quelle che annuncia Tsipras. Detto questo, cioè, è un po' come per l'Inter, non farmi parlare della sinistra italiana. È un po' come per l'Inter. Una questione di coscienza. Eccolo lì. Un mix di fiera delle vanità e di personalismi che mi fa orrore. Infatti quello che sostengo io di Tsipras è che non è, come dire, un boom così episodico, ma c'è sotto tanto tanto lavoro sociale nei quartieri, nelle strade. Beh, era credo al 2-3% qualche anno fa, è arrivato al 30%. Esatto, quindi, ha lavorato bene con la gente greca, non con gli uffici stampa, capito? Questa è un po' la differenza. Eccolo lì. Va bene, insomma, invece Federico, noi siamo partiti qua con il grillo parlante, nel senso Beppe Grillo, siamo nella settimana decisiva forse per l'elezione del Presidente della Repubblica. Pubblica e chi sarà? Ce lo dice Federico Novella, sono le 6:41. Nome. Anche perché qua il problema qual è? Che ogni giorno che passa, anziché scremare, diciamo, la rosa, sui giornali aggiungono nomi su nomi. È chiaro, non sanno nulla. Arriverà anche Alessandro Milan. Non ho 50 anni, ma tecnico al Quirinale, tecnico al Quirinale. Sì, Inzaghi. No, io credo di aver capito però che la terna, diciamo, se si davvero vogliamo individuare tre nomi, c'è ancora Amato, anche se un po' in ribasso nel borsino del Quirinale. Amato. Poi ci sarebbe ancora Mattarella, ben di nota, e poi mi dicono al terzo posto ci sarebbe ancora la Finocchiaro. E Prodi, che io sai che ti ho detto Prodi sarebbe un sorpresone, perché sono non, sorpresone. E poi c'è, no. E poi c'è Magalli. Ma chi non voterebbe Magalli? Ma subito. Questa cosa del Fatto Quotidiano, al Fatto Quotidiano sono disperati, ha lanciato il sondaggio chi vorreste presidente. Robecchi, tu che anche scrivi sul Fatto Quotidiano, ammettilo. Ma come no? Devo assolutamente dire che il dadaismo gli ha preso la mano. Magalli, perché voi sapete... Sapete che succederà così: giovedì alla prima seduta, dove non ci sarà accordo sul nome, quindi nel segreto dell'urna ognuno farà un po' quello che gli pare e qualche burlone c'è sempre, vedremo la Boldrini sciorinare un bel Magalli. Potrà fare un gruppo parlamentare, secondo me. Però a leggere la cosa dietro la sua stupefacente assurdità, c'è anche una lettura possibile, che è quella di: pensa che fiducia hanno nella politica per arrivare a dire Magalli, che è come infatti. Guarda, lumiere sotto casa, no? Poteva andare peggio, potevano scegliere Malgioglio, scegliere un personaggio televisivo magari anche credibile. Effettivamente, potevano mettere Novella, tu pensa, insomma. Ma anche, scendendo più basso, comunque i tre nomi che ha fatto Novella sono Amato, figli del Nazareno, Mattarella, dai. Oggi Repubblica titola: Berlusconi vuole frenare Mattarella. Non ho capito perché, sono fermato al titolo. Ma perché è un gioco delle parti, dai, tu, da qui a qualche giorno ne vedremo delle belle, caro. Abbastanza. Pare che Renzi sciorinerà il nome giovedì. Lo tirerà fuori al mattino, giovedì. Giovedì. È un buon modo farlo all'ultimo secondo, è un buon modo di stimolare il dibattito nel paese. Lo dirà pubblicamente, ma tra di loro incontrano. Sì, lo dirà pubblicamente, quindi noi non ne possiamo parlare, diciamo, siamo orbati da questa possibilità. Ma perché tu passi le colazioni, le cene, i pranzi a parlare di chi sarà il Presidente della Repubblica? Fammi capire. No, però essendo una figura importante per l'assetto istituzionale italiano, mi piacerebbe discuterne apertamente. Ti ricordi? Che roba polverosa quando c'erano le sezioni. Sì, meglio dei bei dibattitoni. Con la Ferracchiani via mail. Vabbè. Però da che mondo è mondo, se tu il nome lo dici troppo in anticipo, poi è lo bruciato, bruci, quindi è bisogna bruciato. Dirlo alla fine. C'è secondo anche... me poi. C'è... ma non bisognava cambiare verso, scusi. No, effettivamente c'è questa leggenda, dai, novella, questa cosa si brucia. Ma perché se uno parla di uno si brucia? Ma solo in Italia, popolo di superstiziosi, popolo di... Ma perché? Siccome Renzi sa bene che tra i grandi elettori ci sono dei, come li chiama lui, frenatori, che comunque hanno un solo obiettivo, sabotargli l'elezione, allora lui sa che se interviene all'ultimo li frega sul tempo, questi non si riescono a organizzare. E lui riesce a metterci e sono un po' tutti così, tutti sbandati a votare quello lì. Vorrei solo mettere a verbale che se si va nella direzione sbagliata, frenare è giusto. Ah, ecco, appunto. Dice se c'è un muro davanti e stai andando a 80 all'ora, Robecchi frena. Bravo, non è che frena fa. Vabbè. A proposito di frenare, andiamo al traffico. Va. 24 mattino. Il patto del Nazareno consiste nel vendere Forza Italia a Matteo Renzi e anche il Milan, visto i risultati. Capri Giuliano Amato, dove è la meta presidente di Buria? Magnaroni, altro che un vecchio che vuole, perché sa come mangiare tanti soldi, quel partito è il ladro. Se tu volisse bene veramente... facciamo Giuliano Amato presidente, se te volisse bene Giuliano Amato, fallo presidente perché chi se non ha mai rubato. Che trasmissione di paraculio, l'importante è prendere per il culo la Lega, basta, il resto non conta. Io non sono arrabbiata, sono perplessa. Perché Bettino Craxi è morto in esilio ad Annamette e Giuliano Amato, tesoriere del Partito Socialista, è impredicato per la Presidenza della Repubblica? Boh! Ogni domenica c'è un Milan che mi butta giù. Meno male che dal lunedì c'è un altrettanto Milan che mi tira su. Ciao Lazzaron! Ciao Lazzaron anche a te! Bene, Robecchi, abbiamo condito questo. Culto della personalità. Sì, siamo proprio al culto della staliniano della personalità. Io vorrei una statua di Milan in centro a Milano, ma... così tutti vanno lì a inchinarsi come quella della mamma di Fantozzi, ti ricordi? Della mamma di Fantozzi. Come no? Va bene, così. Va bene, voglio parlare di questi soggetti molto simpatici che una volta sono venuti anche a Radio 24 dicendo: ma siamo nel tempio del capitalismo, del sole 24 ore. Sono un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo. Sono i 99 posse. Li conosci, Federico? Sì, più o meno. Buona musica, secondo me. Sì. Fanno della buona musica, sì. Come mai ti sei affidato a questo filone musicale? Ah, beh, non sai che succede. Vabbè, sapete che è successo a Cremona qualche tempo fa? Alcuni di Casa Pound hanno picchiato in maniera brutale uno di un centro sociale, in coma, rischia di perdere un occhio, cioè dicono ha perso quasi un occhio. Allora, che è successo? C'è stata una contromanifestazione, credo venerdì o sabato. E in cui hanno un po' messo a ferro e fuoco, questa volta invece dei centri sociali, no? Qualche vetrine spaccate, eccetera. Sai cosa hanno detto i 99 post sul loro profilo Facebook? Giovedì saranno a Cremona in concerto e hanno scritto: meno tastiere, più bastoni. E oggi su Repubblica i loro leader Zulu. Sai Zulu, lo conosci Robecchi, Zulu? Sì, come no, Zulu. Li ho seguiti a lungo. Come no, oggi dice: ma no, non hanno sfasciato la città, dai, sono state rotte due vetrine di banche, come dire. Vabbè. Diamogli una medaglia allora. Vabbè. Però poi fanno tutta un'intervista a dire questo... non sarebbe successo se non ci fosse un raggruppamento fascista, visto che abbiamo una legge che lo vieta di di no, Robecchi. Se non ci fossero le banche, se non ci fossero le banche, effettivamente sarebbe meglio. No, la questione è molto seria. Però, com'è possibile, Alessandro? Tu che li conosci, com'è possibile? Perché va bene le ragioni, va bene a dire quegli fascisti ci hanno. Ma perché devi dire una roba del genere? Ma tu non devi ricommentare a dire noi abbiamo distrutto due banche. Ma io non ho mai distrutto una banca in vita mia, al massimo ho tirato un cazzotto sul banco, ma quando non funzionava, che c'avevo bisogno del contante, questo è stato il mio gesto eversivo sulle banche, quindi come dire. Non parlo dei singoli, come diceva Trapattoni, però diciamo anche una cosa, che davanti alle squadracce fasciste che girano per una città e ammazzano di botte uno, noi ci scandalizziamo molto per le vetrine. Allora io mi scandalizzo volentieri insieme a voi per le vetrine, però prima mettiamo in galera chi ha menato. E questo certamente, non lo si mette in dubbio, voglio dire, ma non è che la risposta deve essere un altro tipo di violenza. Però Milan, ti faccio un discorsetto, che è questo: io vivo a Milano, che è città medaglia d'oro della resistenza. Sì. E tutti gli anni che Dio manda in terra, verso, credo, novembre, dicembre, adesso non mi ricordo, c'è una bella manifestazione nazista con le svastiche, il passo dell'oca, eccetera, eccetera, con i poliziotti che stanno lì a difenderla. Allora, la mia domanda è, il giorno che i milanesi democratici vanno lì e li accolgono come si dovrebbe, ci lamentiamo poi che salta qualche vetrina o ci complimentiamo perché finalmente mettono fine a una vergogna? Non lo so, risponderà Federico Novella su queste cose. Ma mettiamo in galera tutti, i delinquenti. L'importante è che non diamo e che non facciamo passare il messaggio occhio per occhio, dente per dente. Il messaggio di dire giovedì saremo a Cremona, meno tastiere, più bastoni. Voglio dire, che messaggio è questo? Voglio dire, giovedì poi c'è un concerto a Cremona. Se giovedì succede qualcosa, non diciamo che non c'erano le premesse, come dire, questo voglio dire. Dopodiché, assolutamente ragione. Cioè, prendere quelli di Casa Pound che hanno fatto questa cosa, cioè hanno sprangato riducendo in fin di vita una persona e processarle e mandarle in galera. Questo dovrebbe fare uno Stato normale. Aggiungo un'altra cosa. Isolare chi politicamente si serve di quelli di Casa Pound per aggranellare voti. Non faccio nomi, diciamo, no? Ma abbiamo capito, il signor Salvini che fa cheek to cheek con Casa Pound sta sdoganando una cosa pericolosa, poi ci alziamo su alla mattina a dire Alba Dorata c'ha il 6%. Eccola, adesso mi richiama quello della segreteria a dire che passiamo solo tempo a andare contro la Lega. E dire che qua Peter Bescapè ha fatto il selfie con Salvini, lo trovate su Twitter. Vabbè, non è mica un reato adesso. Era lì alla partita di hockey su ghiaccio da tifoso. Ha detto anche che Salvini, essendo milanista, ripiega sull'hockey su ghiaccio. Esatto, pensa che ha parlato l'interista. Mi rimetti un attimo quell'audio iniziale, Peter, che non ho ben capito. Piove il pallone, poi colpo di testa, il gol di Moretti, il Torino passa in vantaggio. Ecco così. Ha esultato un po' anche Novella da bianconero per questo gol granata al 93. Ma ho esultato, esatto. Comunque io vi devo salutare. C'è una precisazione fondamentale. Mauro da Vimercate ci scrive che non era effettivamente la statua della mamma di Fantozzi, giustamente, visto che lui si doveva inchinare, ma quella di Diego Barambani. Vi ricordate? C'è il titolare, il padrone, il capo supremo, il commentatore Lupman. Ma non era Cobram quello? No, Cobram era quello del ciclismo, era quello della Coppa gara. Cobram, la esatto. Coppa Cobram. Va bene, vi devo salutare. Che vai. Dire? Vasceva! Vasceva! Questa è Federico, vai. Parte, Manchester. Vediamo. Manchester. No! Abbiamo vinto! Ciao Federico, buona giornata. Ciao, buongiorno. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, cari italiani, debosciati d'Italia. Siamo all'inizio della 91esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. E voi vi vedo come al solito rallentati. È lunedì d'altronde, e quindi siete un pochino giustificati, ma siccome noi siamo qui già attivi dalle 5:30, forza, forza, debosciati, datevi da fare. Intanto vi ricordo che oggi parleremo un pochino di università. Avremo con noi Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, ma avremo con noi anche un professore del Politecnico di Milano, che è uno di coloro che ha fatto ricorso in Italia, perché al Politecnico da alcuni anni hanno deciso di fare alcuni corsi universitari esclusivamente in inglese. Il TAR ha dato ragione a questi professori, ma ora poi c'è stata una sospensione, insomma la vicenda si è un po' complicata. Ci sarà la Corte Costituzionale, pensate, che si dovrà pronunciare su questo, cioè se un ateneo può avere diritto a fare alcuni corsi esclusivamente in inglese. Insomma, parleremo di università un po' identificata anche già da Gian Antonio Stella nei giorni scorsi sul Corriere della Sera come una delle sacche di resistenza al cambiamento che c'è in Italia. Ma avremo ospite anche l'onorevole Carla Ruocco del direttorio del Movimento 5 Stelle, perché si apre una settimana importante, non dico decisiva, importante, c'è anche un Presidente della Repubblica da eleggere. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 26 gennaio i titoli: il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì si concentra sul fisco al test del 7:30 precompilato, questo è il titolo di prima pagina. Ma davvero tutte le aperture sono sulla vittoria di Tsipras in Grecia. Ecco qui il Corriere della Sera: trionfo di Tsipras, Atene agita l'Europa. Per Repubblica: trionfo di Tsipras, terremoto Unione Europea, cambierà tutto. La Stampa: Grecia, il trionfo di Tsipras. Trionfo è la parola più gettonata. Il Messaggero: vince Tsipras, sfida al rigore. Il Giornale: comunisti al governo, occhio. Questo è il monito, mentre il Manifesto, che esce in edizione straordinaria, di solito il Manifesto il lunedì non è in edicola, ma per la vittoria di Tsipras, eccolo qui il titolo con la foto di Tsipras, mitico con la K, questo è il titolo del Manifesto. La Grecia dice basta, anche il Fatto Quotidiano, mentre il Giorno: Grecia garantiamo noi. È un'intervista al sottosegretario Gozzi dopo la vittoria di Tsipras. Trionfa sul rigore è il titolo anche del Secolo XIX. Vedremo soprattutto i riflessi della vittoria di Tsipras per l'Unione Europea. Li leggeremo oggi, già i giornali danno tanti spunti interessanti su questo. Ma voglio partire da cosa? Cronaca italiana. E voglio andare a Cremona. A Cremona c'è stato di recente un attacco molto molto violento da parte di alcuni membri di Casa Pound, che hanno ridotto in fin di vita Emilio Visigalli, un militante del centro sociale Dordoni. Questo è successo circa 10 giorni fa. Che è successo allora? Che venerdì o sabato scorso c'è stata una contromanifestazione, questa volta i centri sociali sono andati in piazza ed è successo anche qui scontri, putiferio, 500.000 euro di danni, così si legge sul Giorno. Dopo la guerriglia urbana, l'ira della gente di Cremona. Pareva più o meno tutto finito quando... Cosa succede? Succede che sul sito Facebook dei 99 Posse, che sono un gruppo che fa rap napoletano, molto, molto anche di lotta, no? Molto impegnati socialmente, certamente a sinistra, appare questa scritta: giovedì saremo in concerto a Cremona più bastoni, meno tastiere. Eccolo qui l'appello shock che finisce su tutte le prime pagine dei giornali, l'appello shock dei 99 post sul Corriere, Repubblica, Il Messaggero, in prima pagina. Repubblica, leggo Repubblica perché Repubblica intervista il leader dei 99 post, Luca Ozzulù, cantante rapper insieme a Marco Pezzotto, motore elettronico della band napoletana. Intervistati da Carlo Moretti difendono quello che hanno scritto, dicendo: noi non siamo per la violenza, per carità, siamo per il diritto alla difesa dei cortei, per l'autodifesa dalle violenze arbitrarie della polizia. Sul nostro profilo Facebook c'era la foto del corteo di Cremona, organizzato in seguito a un attacco squadrista di 60 fascisti, con un compagno massacrato che ha quasi sicuramente perso l'occhio. A Cremona, sentite questa frase, a Cremona non è stata sfasciata una città, sono state rotte due vetrine di banche. Ecco qui la verità di Ozzulù. Dopo 10 anni di aggressioni fasciste è stata fatta una manifestazione di autodifesa contro le cose, non contro le persone. Cosa vuol dire una manifestazione di difesa contro le cose? Sono state distrutte due vetrine di banche. Ecco, 500.000 euro di danni. Questo è il risultato secondo quello che scrive Il Giorno. Ma dal profilo Facebook c'è un rassicurante in vista di giovedì: meno tastiere, più bastoni. Evviva! A proposito di cronaca, vabbè, lasciamo questa vicenda e voglio leggere ciò che Flavia Amabile racconta sulla Stampa, pagina 14. È la storia di una delle tre insegnanti, e quindi questo interessa a tutti coloro che seguono con molta attenzione la scuola, che dopo anni di precariato, quindi di supplenza, ha fatto causa e ha vinto. E ora il ministero dovrà assumere lei e altre due insegnanti dalle supplenze alla cattedra grazie alla Corte Europea. Da questo momento in poi nulla sarà più come prima per i precari della scuola. È il crollo definitivo del muro di Berlino avvenuto mercoledì scorso. La protagonista del crollo ha un nome: Raffaella Mascolo di Ischia. È stata la sua vicenda alla base della sentenza della Corte Europea che il 26 novembre ha dichiarato illegittima l'abitudine italiana di affidare le supplenze annuali da settembre a giugno sempre agli stessi professori precari. Dalla quarta supplenza annuale in poi, secondo la Corte, i prof vanno assunti. Cari precari, avete avuto 4 supplenze consecutivamente ogni anno? Questa decisione, racconta la Stampa, è destinata a riscrivere la storia di chi vuole lavorare nella scuola. Mercoledì, Tribunale di Napoli ha ordinato l'esecuzione della decisione, stabilendo che Raffaella Mascolo e altri due precari hanno diritto non solo a una cattedra, ma anche alla ricostruzione di tutta la carriera. E così a 54 anni la professoressa di Ischia può considerarsi una ex precaria, sapendo che la sua vittoria sarà quella di tanti altri. Già quanti, secondo alcuni sindacati, sarebbero 250.000 professori nella stessa situazione di questa professoressa, con un costo per lo Stato, se si dovesse applicare una stabilizzazione di tutti, di 2 miliardi dello Stato. Per il ministro Giannini, per la verità, sono 15 volte di meno, non 250.000, ma un quindicesimo di questi, fate i calcoli, che a quest'ora chi avrà ragione non lo so, però certo questo cambia un po' le cose. Sempre sulla Stampa c'è questa notizia che viene da Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Chi ieri era in parrocchia a assistere alla messa ha assistito a uno di quei colpi di scena che qui direbbe Mike Buongiorno, clamoroso. Il parroco che annuncia: finita la messa, vi lascio perché divento papà. È una di quelle cose a cui assistere tutti vorremmo almeno una volta nella vita. Il parroco diventa papà e annuncia alla fine: Don Claudio Cavallo abbandona l'abito per fare il padre dopo 25 anni di sacerdozio. Tutti dicevano, ma allora era vero, io lo sapevo che era vero, sapevo che sarebbe finita così. Don Claudio annuncia: ho un avviso insolito da darvi. Alla fine della messa a Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo, molti dei fedeli non sono riusciti a trattenere le lacrime. L'annuncio, gli applausi dei fedeli, è una benedizione, dicono molti dei fedeli. Insomma, Don Claudio annuncia la paternità alla fine dell'omelia. A 54 anni diventerà padre e la futura mamma, 47, è una sua parrocchiana. E vabbè, cose che succedono a volte, purtroppo ne succedono altre, come questa, che stravince oggi il premio Mani sul Volante. Se siete alla guida, tenetele ben strette, perché questa è veramente forte. E appoggiate ovviamente come al solito tazzine di caffè bollente, anche le spremute, che non è bello macchiarsi il vestito con una spremuta. La notizia viene dal Messaggero. Sono Alessia Marani e Adelaide Pierucci che la racconta alla pagina 14. Io non so se voi ricordate l'aggressione con un pugno di Alessio Burtone, immortalato in un fotogramma di una videocamera, uccise con un pugno dopo una lite in una farmacia, una lite banale di coda, la infermiera rumena Maricica Aianu. 4 anni fa uccise un'infermiera con un pugno, Burtone già libero dopo 4 anni. Nonostante il parere contrario del procuratore generale che dice doveva rimanere in carcere, nonostante la condanna a 8 anni, nonostante in primo grado avessero chiesto per lui 20 anni di carcere, ne ha avuti 8. Poi si sa com'è in Italia, gli sconti di pena, le robe, la buona condotta, sì, il carcere deve rieducare, eccetera. 4 anni e già fuori. 4 anni di carcere per avere ucciso con un pugno in faccia una persona dopo una lite banale, già fuori. E lui dichiara: è finito un incubo. Lui. Alejandro Milan, il tanque dell'informazione. Vabbè, il tanque, Dennis, mannaggia, sarà la mia. Ma noi siamo già alla sconfitta successiva, Dennis, ce la siamo già dimenticata. Oh, mi scrive un ascoltatore da Cremona. Sono cremonese, han devastato mezza città. Ecco, adesso magari io non ero a Cremona, ma mezza città forse anche un'esagerazione dall'altra parte. Compreso il comando dei vigili urbani, hanno devastato tutto, non solo 2 vetrine, hanno anche bruciato, appiccato fuochi. No, per il leader dei 99 posse che hanno fatto? Hanno spaccato 2 vetrine di 2 banche, peraltro. Il sottomessaggio è: spaccare vetrine di banche si può fare, come dire, una contestazione al sistema. Meno tastiere, più bastoni. Questo l'annuncio per il concerto di giovedì. Pensate che bel clima che ci sarà giovedì a Cremona. Rinchiudetevi in casa se potete dalle 18, cari cremonesi. L'unica cosa che posso darvi come consiglio è questo. Allora, parliamo invece della vittoria di Tsipras, una vittoria netta, anche se non ha conquistato la maggioranza assoluta, al 36,34%, quindi adesso bisogna vedere con chi farà il governo Tsipras. In ogni caso, il partito Syriza conquista il 36,34% davanti alla Nuova Democrazia del premier uscente Samaras, che è al 27,81%. Al terzo posto i neonazisti di Alba Dorata, 6,28%, e tra poco ne parleremo. Intanto il profilo di Tsipras, Andrea Nicastro, a pagina 3 del Corriere della Sera. Alexis il Rosso o Borghese figlio di papà? Interessante questo ritratto di chi è Tsipras. Attorno nel partito i ritratti di Rosa Luxemburg, Karl Marx, la faccia di Che Guevara sulle magliette, gli striscioni, i manifesti, l'arcobaleno dei movimenti no global, ecologisti, libertari o pacifisti negli anni 90. Tsipras è dal 2008 presidente di una coalizione Siriza di estrema sinistra, scrive il Corriere, e quindi dopo lo mandiamo a Robecchi, che mi ha criticato prima di dire estrema sinistra, invece lui la definisce sinistra. Per il Corriere è estrema sinistra, che prima della sua leadership viaggiava attorno al 2% e che poi con il giovanotto Tsipras alla testa è cresciuta di voto in voto arrivando fino al 36%. Chi c'è sotto tutto la carta, cioè chi è Tsipras? Probabilmente, scrive il Corriere, è il primo esemplare di una nuova specie politica, quella dei Robin Hood della nuova Europa impoverita e cinesizzata. È un figlio borghese che non riesce ad accettare che democrazia non faccia più rima con benessere, che Europa non significhi più diritti umani e accoglienza per gli immigrati, che qualcuno ci stia male e non ci sia un ospedale per curarlo. Magari ha ragione lui, magari no, ma ci sta provando e i greci con lui. Il tema grande è che succederà ora con l'Europa. Beh, l'Europa intanto reagisce con un vertice d'urgenza oggi. Draghi, quindi BCE, Jean-Claude Juncker, capo della Commissione Europea, Donald Tusk e Jerome Dijsselbloem, cioè il presidente del Consiglio Europeo dell'Eurogruppo. Un vertice d'urgenza tra Draghi e Juncker. Questo è il titolo anche del Corriere della Sera a pagina 5. E guardate sempre a pagina 5 il Corriere, uno dei consiglieri economici di Tsipras, Kostas Lapavitsas, che cosa chiede? Chiede subito: cancellate il nostro debito, abbiamo 6 mesi o l'euro finirà. Il programma della Troica è una via senza uscita, la Grecia è fallita, le imprese pubbliche e private non possono lavorare solo per pagare gli interessi, non si permettono investimenti, ricerca, sviluppo, solo un lento declino, l'unica soluzione è tagliare il debito. Cosa farà l'Europa? Il presidente della Bundesbank, Weidmann, quindi i tedeschi, già dicono bisogna rispettare gli impegni presi dai governi precedenti con l'Europa. Da questo punto di vista è l'articolo più interessante, vi segnalo, è quello di Repubblica, Ettore Livini, pagina 6 e 7, che cosa vuole Tsipras, o meglio la sua coalizione Syriza, e che cosa pretende l'Europa. Sul debito, il leader di Syriza chiede un taglio almeno del 50%, secondo le indiscrezioni, sono 320 miliardi di esposizione della Grecia. La Troica è fermamente contraria a un taglio secco del debito. Sull'occupazione, Atene chiede, anzi potrebbe decidere unilateralmente, di cancellare le riforme della Troica che hanno reso possibili i licenziamenti di massa e cancellato i contratti collettivi. La Troica invece da questo orecchio non ci sente. Sul welfare, Syriza sembra inflessibile, vorrebbe ripristinare un piano definito umanitario di welfare, elettricità, casa e trasporti gratuiti o a costi sociali alle famiglie più povere, ripristino della tredicesima agli 1,2 milioni di pensionati che prendono meno di 700 euro al mese. Per la Troica questo rischia di essere uno dei punti di attrito più forti, e poi le tasse, gli investimenti pubblici, insomma interessante ciò che Repubblica scrive a pagina 6 e 7, perché mette a confronto le richieste greche di Syriza e le possibili risposte europee. Che succederà vedremo. Certo, inquieta anche l'affermazione, anche se avevano preso più voti la scorsa volta, ma al terzo posto i neonazisti. Alba Dorata, sono arrivati al 6,28, avranno 17 seggi. Ebbene, come scrive a pagina 2 il Messaggero, il leader dei neonazisti, Nikos Michaloliakos, vuole esultare, vuole fare una conferenza stampa, vorrebbe farla via Skype almeno, peccato che sia dal 2013 in carcere per omicidio. E con lui anche altri di Alba Dorata. Ecco, questo è un po' il clima che c'è in Grecia anche per quel che riguarda la vittoria dei neonazisti. Il caso è proprio questo: vuole fare un collegamento via Skype dal carcere dove era rinchiuso per omicidio per festeggiare il successone del partito di cui è leader, la destra estrema, che arriva al 6,28 in Grecia, e questo l'ho letto dal Messaggero. Che dire, venendo alle cose italiane, le cose italiane sono legate soprattutto al nome. Il nome è il giorno, meglio la settimana, il giorno in cui si inizierà a fare sul serio con gli incontri, i nomi, i borsini, sale, scende per il Quirinale, sto parlando del Quirinale, giovedì pomeriggio la prima votazione alla quale assisteremo senza dubbio con grande spasso, Laura Boldrini citare anche alcune volte, Magalli, che come sapete è in testa per il Popolo del Fatto Quotidiano nelle votazioni. Chi vorreste presidente? Giancarlo Magalli, sì, quello lì, quello della Rai. In realtà, per fare sul serio, ci sono i borsini. Per il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli salgono le quotazioni di Fassino e Mattarella. Per il Messaggero a pagina 9 la carta segreta di Renzi del Premier è Padoan. Ipotesi di rimpasto di governo e Padoan, ministro dell'economia, in pole position. Ma c'è anche Anna Finocchiaro e anche Veltroni e anche Prodi. E anche Grasso e anche mentre dall'altra parte Berlusconi pare preso soprattutto dai problemi con Fitto, che ha definito, questo in un retroscena pagina 12 di Alberto D'Argenio, e siamo su Repubblica, Fitto un traditore, vuole solo farmi del male e fare del male al partito, ma per me è un disco rotto, non mi interessa più. Di lui se ne occuperà Denis. Che Denis è Denis Verdini, non è Denis il tanke, appunto, quello là, Denis, quello che ci ha fatto del male. Ma anche nei momenti di grave difficoltà, amici rossoneri, amici milanisti, dobbiamo stare uniti e ricordare sempre una cosa, c'è pur sempre l'Inter. Saluto Mauro Meazza, grande Maurone. Buongiorno, buongiorno. Sì, che voce Mauro, un po' depressa, cosa è successo pomeriggio? Sono concentrato perché è una settimana importante in cui ci saranno molte cose decisive, sì. Ma soprattutto ci sarà Telefisco, caro. Giovedì c'è Telefisco. Mica il giorno in cui potremmo eleggere il Presidente della Repubblica. No, ma siamo Telefisco. No, siamo già combinati. Io non credo che verrà fatto il mio nome, no? C'è questa candidatura che citavi prima per tenere appunto il giovedì occupato. No, scherzi a parte, giovedì Telefisco, oggi ne parliamo sul Sole 24 Ore perché ci sono tutte le tematiche fiscali, le nuove tasse del 2015 e come d'abitudine, come tutti gli anni, le spieghiamo, le esaminiamo a Telefisco. Poi questo è l'anno del 7.30 precompilato, caro Milan, quindi la dichiarazione già diciamo semilavorata. Ti spieghiamo perché semilavorata oggi a pagina 3 del Sole 24 Ore, cioè quali dati sanno già di te, sapranno già di te e quali invece dovrai completare tu con pazienza. Intanto arriva subito un Meazza for President, così in presa diretta. Facciamo lobby, Meazza. Dobbiamo tenere il nome coperto fino almeno a Telefisco. Va bene. Poi dopo Telefisco possiamo uscire allo scoperto. Volevo dirti che oggi su Sole 24 Ore ti raccontiamo anche dei prezzi, dell'andamento dei prezzi, perché c'è l'aggiornamento Istat, una rivalutazione molto piccola che è effetto della crisi, e però anche qualche buona notizia, si prevede un aumento di assunzioni dei giovani nel primo trimestre 2015, forse la volta buona, come diceva speriamo, perché sarebbe veramente una notizia di quelle che diamo molto molto volentieri. Ti diciamo anche come mettere a profitto la seconda casa nelle pagine di Risparmio e Famiglia, affittando secondo le varie formule. Come comprare la prima? Se tu continui a tenere fermi 2 eurini, però non è giusto. Del mercato immobiliare. Pensiamo in grande, inizierò a pensare già alla seconda. Cominciamo a pensare in grande, ci sono anche delle persone che hanno una seconda casa, magari per virtù dei genitori, essere che ce l'abbiano a disposizione. Comunque l'importante è stare concentrati su giovedì, mi raccomando. E così poi intanto che aspettiamo anche che riprenda il campionato, come dicevi tu, per tante giornate. Una sosta interminabile. Aspettiamo, perché questa lunga sosta fino prima o poi finirà, speriamo prima che poi. Alessandro Milan, il Rossello Brescio dell'informazione. Ma questo è uno dei più straordinari, eh? Abbiamo subito mandato anche l'audio alla nostra Rossella Brescia, nostra amica, alla quale mandiamo un grosso abbraccio. Ovviamente il Rossello Brescio non è male. Allora, ringrazio chi mi candida alla presidenza, ma non ho 50 anni, non ho i requisiti, sennò chiaramente è ovvio che avrei sbaragliato ogni tipo di concorrenza. Grazie comunque, ma tra 6 anni ci ripensiamo. C'è una polemica in corso tra Renzi e i magistrati. C'è stata l'apertura dell'anno giudiziario sabato e una frase soprattutto ha fatto infuriare letteralmente il Presidente del Consiglio. La frase l'ha detta all'interno del dell'apertura dell'anno giudiziario, il procuratore generale di Torino Maddalena, il quale ha detto in pratica questa frase, citando Orwell e La fattoria degli animali. Ha detto: Renzi si ispira a Napoleon della fattoria degli animali, che voleva far lavorare tutti di più fino a crepare. Ora voi potete capire che, estrapolate dal contesto, estrapolate dalla citazione, mettere in bocca a un magistrato la frase riguardo al taglio delle ferie dei magistrati, ci vuol lavorare fino a far crepare, ci vuol far lavorare fino a crepare, è estrapolata, quindi magari un po' forzata come interpretazione, ma messa così grida un pochino vendetta. Renzi cosa ha fatto? Ha scritto sul profilo Facebook: critiche ridicole, trovo ridicolo, e lo dico senza giri di parole, che se hai un mese e mezzo di ferie e ti viene chiesto di rinunciare a qualche giorno, la reazione sia il premier ci vuol far crepare di lavoro. Ecco che il procuratore generale Marcello Maddalena viene intervistato un po' da tutti. Il Corriere della Sera, Riccardo Bruno, inizia così: Napoleon non l'ha presa bene, caro procuratore, ma io ho fatto una battuta. Quello che mi ha molto colpito è che su 20 pagine di relazione, con forti critiche ma anche riconoscimenti al governo, il premier abbia risposto a un solo passaggio, prendendo sul serio quello che era ironico. Renzi insomma non ha riso, non vogliamo far crepare nessuno, ha replicato via Facebook, ma non accettare alcuna critica mi sembra eccessivo. Così il procuratore Maddalena, che viene intervistato anche sulla Stampa, viene intervistato anche sul Fatto Quotidiano. Il premier non capisce le mie critiche, dice, intervistato da Giuseppe Lobianco, erano riferimenti letterari. Ieri lei però ha paragonato Renzi a Napoleone, il cane della fattoria degli animali di Orwell, e i magistrati al cavallo Gondrano, spremuto di lavoro fino alla morte. Insomma, Renzi come Stalin. Ma non c'è alcun riferimento alla metafora con cui è stata letta La fattoria degli animali, era solo una battuta. Insomma, si difende così anche sul Fatto Quotidiano Maddalena. Però la polemica è: Renzi, toghe ai ferri corti, anche il titolo di Repubblica. Sulle ferie hanno tesi ridicole, così dice il premier, dei magistrati. Registro anche un'intervista a un magistrato che è Cuno Tarfusser, che è stato per anni a Bolzano, ora è giudice alla Corte Penale Internazionale, e dice: vacanze troppo lunghe, la polemica è sbagliata. A pagina 7 del Messaggero dice Tarfusser, che è un magistrato: non condivido la presa di posizione di Maddalena, è proprio l'argomento ferie che mi pare utilizzato in modo strumentale da entrambi i lati, i problemi reali sarebbero altri. Finalmente qualche parola di saggezza, come se il problema della giustizia che non funziona in Italia sia qualche giorno in più di ferie dei magistrati, mentre è tutt'altro. Avete problemi di salute? Sembra un annuncio di quelli degli anni 70. No, però è interessante l'inchiesta del Giornale di Stefano Filippi, la trovate a pagina 14 e 15. Sapete quanti italiani vanno all'estero per curarsi? Sono 200.000, questo secondo le stime. È l'ultima frontiera del turismo internazionale. C'è chi unisce medicina e benessere, chi insegue i maghi della chirurgia, ma anche chi banalmente vuole andare dove si spende meno. E infatti il motivo per cui si va più all'estero sono per i denti e anche per rifarsi il seno. Turchia e Croazia investono nel settore sanitario, basso costo di vita e manodopera consentono risparmi fino all'80%. È interessante però questa inchiesta: la salute, l'ultima frontiera del turismo internazionale. Curarsi all'estero è un business tutto da esplorare e sfruttare. E il Giornale dedica appunto due pagine. Certo, ci sono anche le sirene del low cost. C'è anche questa indagine interessante, cioè i pazienti che sono andati all'estero, interrogati, lo rifarebbe, solo uno su due dice di sì, il 50% invece è pentita, ma il 50% tiene duro. Vi segnalo anche per la cronaca un'interessante puntata della polemica, puntata nel senso che ieri c'è stata una lettera di due persone che hanno subito un sequestro anni fa da parte dell'anonima Sequestri Sarda, e hanno scritto una lettera indignata, pubblicata dal Corriere della Sera, a dire: a noi lo Stato non diede nessuna assistenza. è la vicenda di Anna Bulgari e il figlio Giorgio, che furono rapiti. Il figlio Giorgio fu anche mutilato dell'orecchio. Oggi il ministro degli esteri Gentiloni risponde al Corriere: contro i terroristi, ma lo Stato deve salvare gli ostaggi. Si mettono insieme ovviamente la questione dei sequestri, la questione di come viene gestita dallo Stato, la vicenda di Vanessa e Greta rientrate in Siria, con Gentiloni che ancora ribadisce sul Corriere: ci sono aree del mondo in cui non si deve andare, ma ho trovato inaccettabili le accuse a Greta e a Vanessa di essersela andata a cercare. C'è comunque un'interessante pagina che segnalo, a pagina 21, con anche la famiglia Bulgari intervistata, che ricorda, dopo la lettera di ieri al Corriere, quei giorni del sequestro e anche l'abbandono totale delle istituzioni. Ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, oggi è mezza pagina, no! Elvira Serra sul Corriere, il dramma, mezza pagina. Se io chiamo uno sul cellulare e lui mi sta chiamando e siamo entrambi occupati, e poi viene fuori il messaggino: ora puoi chiamare. Chi deve chiamare per primo? Il bon ton. Chi chiama? Chiamo io, chiami tu, chiama lei, chiama lui. E intanto la carta costa, costa, costa. Perché, come dice un simpatico concorrente, la carta costa. 24 mattino. Siamo qui, sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, oggi vogliamo parlare un po' di università. L'università italiana è uno di quei mondi, se, ovviamente non si possono fare come al solito generalizzazioni, ma è un mondo variegato, ma che viene percepito in Italia come uno di quei mondi più resistenti al cambiamento. Partiamo da un dato, per esempio. Gian Antonio Stella ne ha scritto qualche giorno fa sul Corriere della Sera, rivelando un dato abbastanza che fa abbastanza riflettere. Sapete, su 13.329 docenti ordinari in Italia, quanti hanno meno di 35 anni? Lo faccio dire lo stesso Gian Antonio Stella, che saluto. Buongiorno Stella. Buongiorno a te. Quanti zero sono? Zero. Zero. Però si dice, vabbè, l'ordinario è il livello più alto, no? Quindi bisogna studiare un pochettino per arrivare ordinario. Ma che vuol dire? Alessio Figalli è un ragazzo di 26 anni, è andato alla cattedra di matematica pura a Austin, nel Texas, appunto, come dicevo, a 26 anni. Che vuol dire? Se tu sei ordinario devi metterti in coda perché devi avere età? Non è mica la cresima. Questa è la cresima, ci si mette in coda. Non è la cresima. Perché ci vuole un'età, ma per andare in cattedra no, se tu sei un genio devi andarci e basta, in una società competitiva è così. No, tra l'altro, quanti invece sono sotto i 40 anni? Se leviamo un po' la soglia, solo 15, quindi cominciamo ad averne un pochino di più tra i 35 e i 40, un pochino di più. Siamo 15. Comunque meno, cioè, poco più di uno su mille. A livello europeo come siamo messi da questo punto di vista? Ovviamente. Sono ovviamente messi molto meglio. Cioè, le università degli altri sono molto più giovani, ci sono, anzi, la storia ci dice che soprattutto in alcune materie, penso soprattutto a quelle scientifiche, l'età è fondamentale. Cioè, chi è più fresco in genere ha più idee, è più inventiva, è più creativo. Cioè, le grandi invenzioni sono state fatte da giovani, come dice Umberto Veronesi quando parla della ricerca. La ricerca scientifica, in guerra si mandano i giovani, non si mandano i vecchi in guerra. Noi abbiamo l'Enea, tanto per dare un'idea, sì, che ha un'età dove i ricercatori hanno un'età media di 49 anni. Io ne ho di più, io ne ho, vado per i 62, per cui non sono un giovinetto, però non sono neanche scemo e so perfettamente che un certo tipo di di creatività ce l'hai da giovane, avere dei ricercatori che della mia età sarebbe una tragedia. Tra l'altro l'età media, scrivi tu nel tuo articolo, si è impennata dei docenti ordinari in Italia fino a 52 anni e mezzo, questa è l'età media. Voglio presentare un ospite a te e agli ascoltatori. Anche questa storia che vogliamo raccontare, secondo alcuni, è un esempio di una università che non vuole, come dire, modernizzarsi, anche se immagino che l'ospite sarà critico da questo punto di vista. È il professor Emilio Matriciani, che insegna ingegneria dei sistemi di comunicazione via satellite al Politecnico di Milano. Buongiorno professor Matriciani. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, buongiorno. Il Politecnico di Milano ha deciso qualche anno fa di istituire alcuni corsi di laurea magistrale e dottorati esclusivamente in lingua inglese. Lei, insieme a quanti altri docenti, credo una 150 in tutto, eravate? Sì, no, in realtà l'informazione che sta dando non è esatta, perché non alcuni corsi, tutti i corsi, tutti gli insegnamenti e tutti i corsi di laurea magistrale e di dottorato in lingua inglese, rendendo esclusivamente in inglese, insomma. Esatto. La lingua italiana sparita, azzerata. È proibito parlare in italiano al Politecnico di Milano nelle lauree magistrali e nei dottorati di ricerca. Beh, adesso proibito, perché... proibito proprio no, però è proibito. Vabbè, andiamo con ordine. Lei, voi avete fatto in 150 eravate, credo. Il ricorso al TAR, e poi siamo andati avanti. Siete andati avanti. Sì. Avete vinto al TAR, ma poi la vicenda, come dire, adesso verrà investita la Corte Costituzionale, perché poi è arrivata al Consiglio di Stato, eccetera. Insomma, ci sarà una Corte Costituzionale in Italia a stabilire se sia legittimo che in esclusiva si insegni inglese in una università italiana. Perché nell'ordinanza della Corte del Consiglio di Stato si richiamano l'articolo 3 sull'uguaglianza dei cittadini, sì, e noi di madrelingua italiana, i nostri studenti di madrelingua italiana in Italia non saremmo uguali a quegli altri che vogliono parlare in inglese. Ma voi ne fate quindi una battaglia di lotta della lingua italiana, cioè non è una resistenza? Noi abbiamo fatto da subito, abbiamo riconosciuto che questa deriva anglofila verso l'inglese, addirittura obbligatorio, non è una questione solo del Politecnico, ma è una questione nazionale, perché le conseguenze di questa cosa sono notevoli: una didattica inferiore a quella attuale, perché con la lingua madre si ha un lessico migliore, si riesce a pensare meglio, se mancano le parole, perché uno non conosce l'altra, sì, lingua, il pensiero è azzoppato, si diventa tutti disabili, e questo già ne vediamo le conseguenze. E poi è un problema appunto nazionale, e quindi siamo soddisfatti che il Consiglio di Stato abbia mandato la cosa alla Corte Costituzionale. Ma lei non crede, professore, certo, per tutta l'Italia, mi perdoni, professore, ma non crede che sia una scelta per rendere più, che ne so, attraente il Politecnico? Tanto ci sono tante facoltà di ingegneria in Italia. Non ha bisogno di essere attraente per l'inglese, per l'estero, per gli studenti esteri. È attraente di per sé, è sempre stato attraente, perché noi abbiamo formato i migliori ingegneri e architetti dell'Italia che andavano, ma magari potranno venire a studiare qui, siccome un'università compete a livello mondiale. Potrebbero venire qui a studiare degli studenti americani, inglesi. Vengono dal Pakistan, gli studenti stranieri, dall'Iran, gli studenti stranieri che vengono da noi, sì, adesso senza generalizzare completamente, perché le eccezioni ci sono sempre, ma sono peggiori dei nostri peggiori studenti. Non è vero che noi dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra o dalla Germania, non viene nessuno. Beh, non so, Gian Antonio Stella, non consola sapere che attraiamo gli studenti peggiori da tutto il mondo, secondo il professor Matriciani. Comunque lì stanno facendo una battaglia per dire non si può insegnare solo in inglese. Noi non siamo contro l'inglese, scusi, noi non siamo mai stati contro l'inglese. Lo vorreste come alternativa, semmai, non come esclusiva. Questi hanno inteso la legge 240 del 2010 con anche in lingua straniera, come solo in lingua straniera. Non so, Gian Antonio, che ne pensi di questa vicenda? Una battaglia che... Io sono costretto purtroppo a fare un attimo di me stesso, nel senso che in questi anni, se voi andate a leggere i giornali, alcune delle battaglie sulla Dante Alighieri, sull'uso della lingua, sulla Crusca, sulla difesa dell'italiano, eccetera, le ho fatte sul Corriere, le ho fatte io. E quindi io sono assolutamente a favore della tenuta della lingua italiana, ci mancherebbe altro. Mi dà fastidio gli inglesismi quando non sono necessari, mi dà fastidio ricevere una lettera in inglese quando non è necessaria, eccetera. Però questo discorso qua sull'università, io sinceramente lo trovo davvero sbagliato, cioè, ci sono moltissime università nel mondo fuori dal mondo anglosassone dove si parla inglese proprio per attrarre studenti stranieri, che poi oggi arrivano i peggiori, anche darsi, non lo so, io non voglio mettere in dubbio, anche se puzza un pochino il discorso del professore, però può darsi che sia così, ma sono costretti a parlare in italiano qua. Magari se potessero parlare in inglese, come dice il professore, potrebbero avere anche una proprietà linguistica che magari, voglio dire, gli fa fare una figura migliore. Vorrei ricordare che siccome gli italiani non sapevano l'inglese in America, il professor Arthur Sweeney li paragonò a un cervello minimamente superiore a quello del bue di cui è fratello. Se non sai la lingua, ha ragione il professore, si fa fatica poi a esprimere anche la propria intelligenza. Noi siamo tra i paesi che accolgono meno studenti stranieri e questa è una cosa che è buona, non possiamo stare a guardarci il nostro ombelico. Appunto, noi attraiamo questo poco, dico, perché pretendiamo che gli altri sappiano l'italiano. Infatti, non è così. Il problema appunto è questo. Mi scrive Marco da Brescia un messaggio, dice: mio figlio è iscritto all'università di Vienna, tutti i corsi sono in inglese, cioè, perché se uno non sa il tedesco, però, perché magari è una lingua un po' più specifica, però sa l'inglese, può andare a scegliere in giro per il mondo dove andare a studiare. Lei, professor Matriciani, questo discorso. Difendere Goethe, Dante, difendere Dante. No, no, per carità, viva Goethe e viva Dante. Professor Matriciani, sì, cioè, guardi, la lingua italiana è la quarta lingua studiata al mondo, non è la lingua del Burundi, non siamo un paese di quel genere lì. Ma per carità, ma nessuno la vuole rotta, ma nessuno la vuole mandare al cimitero, la lingua italiana, non è che quest'obbligo dell'inglese. Guardi, noi i corsi d'inglese li abbiamo fatti al Politecnico, c'era già molti corsi d'inglese, non abbiamo mai protestato per niente, perché era normale, per molti di noi hanno insegnato in inglese e insegnano in inglese. Non è questo il punto è l'obbligo della lingua inglese in un'istituzione pubblica, capisce? Il Politecnico di Milano non è del rettore, non è dei docenti del Politecnico di Milano, non è neppure degli studenti del Politecnico di Milano, ma è della nazione che paga le spese del Politecnico dal 1863. Ora, noi creeremo dei professionisti che sanno le cose solo in inglese, non riescono ad andare a parlare con gli enti locali, con gli enti pubblici. La popolazione perderebbe la nozione dei termini scientifici in lingua italiana, l'italiano diventerebbe un dialetto. Ora, è chiaro che noi dobbiamo difendere la lingua italiana. Ma quindi, scusi, a Vienna, mi faccia capire, a Vienna, i 100 no, ma questo è chiaro, ma a Vienna che insegnano questo, stando quello qualcosa, che dice, sbagliano. L'Austria è un paese piccolino. Ora, il tedesco, Germania invece è il contrario, in Germania anche i docenti che vanno lì, dopo 3 anni sono obbligati a passare al tedesco. E anche gli studenti devono imparare il tedesco. Ora, questa cosa qui è suicida, tra l'altro è anche retrograda, perché l'inglese, questi confondono sempre la lingua della formazione, che è la lingua madre perché ha il registro più alto, con la lingua della comunicazione internazionale, ha capito? C'è questa confusione. Allora, se andiamo avanti di questo passo, dobbiamo fare anche le triennali in inglese, dobbiamo fare i licei in inglese, le scuole medie inferiori in inglese. E l'italiano si perde. Vabbè, adesso questa forse è un'estremizzazione. Fatemi sentire la sua logica. Dice, la loro logica è questa. Sentiamo Giorgio da Napoli che ci chiama e leggo dalla redazione, mi dicono essere un docente universitario, è vero Giorgio? Sì. Buongiorno. Ahimè sì. Buongiorno. No, come? Perché hai? Quanti anni ha lei? Allora, io ho 54 anni e credo di essere un giovane, nel senso, rispetto a quanto dice. La media è 52 e mezzo, quindi faccia conto, è un po' sopra, però. È un po' sopra. Allora, io volevo soltanto riportare la discussione sull'articolo bellissimo di Stella, che diciamo, è un punto di riferimento su alcuni problemi di questo paese. Allora, l'università italiana soffre in questo momento di tre problemi. Il primo, non prende giovani perché non ci sono fondi. Da quando sono stati eliminati i ricercatori, le università non hanno più fondi per poter fare un reclutamento di giovani. Quindi il primo problema è che non si frigge il pesce con l'acqua. Non ci sono soldi. E quindi è un primo problema. Secondo problema, burocrazia. Non è possibile che io, se prendo un contratto di ricerca con un'azienda e voglio fare un contratto di collaborazione a un giovane, devo chiedere il permesso alla Corte dei Conti. Evidentemente mi trattano come se fossi il comune di Forlimpopoli che vuol fare la consulenza per fatti suoi, e non si capisce che l'università è differente come strumento pubblico dagli altri enti pubblici. Ha bisogno di flessibilità. Accidenti, io cito sempre come esempio il comune di Forlimpopoli. Vedo che ho fatto proseliti in questo povero comune di Forlimpopoli. No, però, ma ha detto due problemi interessanti. Il terzo se lo tenga un attimo, perché vorrei da Stella un commento. Stella, ma infatti nel tuo articolo il presidente dei rettori pone l'accento proprio su questo problema: non ci sono soldi. Di questo è uno dei problemi che diceva il nostro docente di Napoli. Sì, ma lì su quello l'Italia è l'8 marzo, è inutile che stiamo lì a dire che occorre investire sulla cultura, che la nostra ricchezza è la creatività, l'intelligenza, eccetera, e poi non investiamo sull'università. Noi abbiamo una percentuale di laureati che è dimezzata rispetto al resto dei paesi, diciamo così, nostri concorrenti, e abbiamo un'università che evidentemente è in grado di preparare anche persone molto che escono bravissime, che vanno a conquistare il mondo quando vanno in giro, però devono andare in giro per conquistare il mondo, perché se restano qua si mettono in coda, e questo non va bene, non va bene nel modo più assoluto. Sta per uscire un libro di Stefano Pivato, che è un professore universitario, che è stato rettore a Urbino, quindi un'università importante, che ha partecipato alle conferenze di rettori, conosce a menadito l'università e fa a pezzi alcune cose come può fare soltanto uno che è dentro il sistema. Io non potrei mai scrivere certe cattiverie perché mi direbbero no, ce l'hai con l'università, non è il tuo mestiere. Però voglio dire, lo dice lui, alcune cose sono insuperabili. Ora, io capisco il discorso del professore del Politecnico sulla difesa della lingua italiana, ma questo vale secondo me può valere soprattutto per chi insegna italiano, per chi insegna latino, per chi insegna materie non tanto per una materia scientifica, ma voglio dire, sulle materie scientifiche ormai purtroppo piaccia o non piaccia è passato l'inglese, piaccia o no, così è andata. No, cioè, nel senso, conto di questo, preparando dei ragazzi soltanto in italiano e costringerli poi, quando andranno a cercarsi il loro spazio, di imparare l'inglese, a rifare alcuni studi perché devono aggiornarli con la lingua che loro finora sono stati autorizzati a non imparare. No, forse è questa la questione, cioè professor Matriciani. Poi non vedo perché possa essere. Sta dicendo Antonio Stella è una sciocchezza. No, ma perché dice? Perché cioè, io sono d'accordo, uno compete nel mondo, non è che. Mi scusi, ma in una disciplina ci sono 100 parole tecniche che in inglese uno deve conoscere, non di più. I nostri studenti, quando non si facevano lezioni in inglese, andavano all'estero e sapevano benissimo cavarsela da soli. Sì. L'inglese lo studiavano al liceo, non c'è bisogno, perché in una disciplina appunto non si superano le 100 parole tecniche in lingua inglese. E quello che si sta dicendo è una sciocchezza enorme. Tutto il resto, al di là della disciplina, uno dovrebbe anche imparare l'inglese, però lei dice non spetta al Politecnico. Non dobbiamo insegnare l'ingegneria elettronica. Su questa ragione, se il liceo non insegna inglese. L'architettura è nata in Italia, dobbiamo insegnare l'inglese. Il diritto costituzionale italiano al Politecnico dobbiamo insegnarlo in inglese. Ma no, allora su questo però vedremo poi cosa deciderà la Corte Costituzionale. Io devo chiudere, prima però ho una cosa da chiarire con Gian Antonio Stella, una cosa privata che chiariamo in un ambito pubblico. Caro Gian Antonio Stella sostiene che io mi debba chiamare Milan come pronuncia, mentre io... che non si esprimerla. Bravo, allora ti voglio dire ciò che mi ha detto il direttore generale di un'industria a Treviso che si chiama Giuseppe Milan, siamo omonimi ma non parenti. Deriva, come dice il professore Gaetano Cozzi di Ca' Foscari, docente di storia, dalle invasioni barbariche dell'anno 1000, quando i barbari andarono in Istria, nell'attuale Istria Croazia, le popolazioni di lì si spostarono a Venezia e, come tu ben sai, le popolazioni di lì usano Milan come nome di battesimo, che da patronimico, esatto, da patronimico divenne cognome, e quindi non deriva da Milano, toponimico Milan, ma Milan dallo slavo. E quindi, però fai benissimo a prendertela con il ministro Padoan, che è quello, esatto, che è quello. La lingua si difende anche in queste cose, esatto, chiaro? Esatto. Chiamandolo Padoan e non Padoan, vabbè, però lui dice che perché si dice Padoan, l'Italia secondo me è un po' più seria che non difendere, vabbè, comunque bene, bene così, abbiamo chiarito tutto. Grazie, grazie Gian Antonio, grazie Gian Antonio Stella per essere stato con noi del Corriere della Sera, così come il professor Emilio Matricciani. Andiamo alla pubblicità. 24 mattino. Allora, sul tema università stanno arrivando tantissimi messaggi. Chi ci dice che ha studiato all'estero, a Friburgo, in Finlandia, chi dice che ha una ragazza cinese dottoranda e vorrebbe studiare in inglese, renderebbe molto di più che in italiano. Vabbè, su questo tema magari torneremo, perché sono arrivati tantissimi messaggi di racconti del paese reale. Dobbiamo parlare però un po' di politica, perché è una settimana in cui si elegge il Presidente della Repubblica. Voglio salutare l'onorevole Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuta, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto vorrei capire una cosa, perché qualche giorno fa avevo letto il Renzi fuori nomi da parte di Grillo, poi c'è stata un'inversione di tendenza, ho sentito un Grillo scatenatissimo dire peste e corna di Renzi, tornare il Grillo molto verbalmente aggressivo. Che è successo in questi 48 ore, onorevole Ruocco? No, nulla, assolutamente nulla. Noi vogliamo che il Renzi faccia dei nomi in maniera chiara e trasparente. Non pensiamo che andarci a chiudere in una segreta stanza con lui senza il coinvolgimento comunque dei cittadini sulla scelta sia la nostra ricetta per avere un presidente proprio vicino ai cittadini, anzi è proprio l'approccio più sbagliato. Quindi semplicemente noi siamo aperti ad una rosa di, alla valutazione di una rosa di nomi che Renzi ci farà. Poi per quello che riguarda le nostre critiche a quella che è la politica economica e fiscale di Renzi, alle sue scelte, e questa è un'altra cosa. Quindi voi vorreste una rosa di nomi da Renzi e poi sottoporli al parere dei vostri elettori, questa è quello che voi vorreste? Sì, coinvolgere comunque tutti i cittadini. Sa che però Renzi ha detto, pare dai giornali, il nome lo farà giovedì mattina, quindi non mi pare che Renzi ci senta da questo punto di vista. Perché lui comunque vuole tenere in piedi il patto del Nazareno con Berlusconi e quindi sceglie Berlusconi a noi, ma lo dicesse chiaramente Renzi, perché è venuto il momento in cui in politica bisogna parlare chiaro, non bisogna andare per così per punti poco precisi. La piazza della festa dell'onestà era con noi quando abbiamo in qualche modo annunciato questa nostra posizione riguardo al Presidente della Repubblica, c'è stato un entusiasmo generale, per cui è stata la prima volta nella storia che una piazza intera si esprime e si rivolge ad un Presidente del Consiglio. Senta, però Deborah Serracchiani ha detto faremo senza il Movimento 5 Stelle, ce ne faremo una ragione, tipica espressione renziana utilizzata anche Renzi sui sindacati eccetera, cioè ce ne faremo una ragione se... alla Serracchiani che saranno i cittadini purtroppo per l'ennesima volta a dover farsene una ragione se loro vogliono ignorarli. Purtroppo sono troppi anni che i cittadini devono farsi una ragione della politica che si volta dall'altra parte e poi i risultati si vedono, non accettano giustamente le politiche calate dall'alto. Vediamo per esempio in Grecia che c'è stata finalmente una, in qualche modo un segnale fortissimo nei confronti delle politiche proposte, e quindi la Serracchiani se ne poi dovrà fare una ragione successivamente quando i cittadini non la sceglieranno più. Ma perché? Cioè, io volevo capire, la scorsa volta voi avete fatto le quirinarie, cioè avete scelto voi dei nomi tra i vostri iscritti al movimento. Perché questa volta invece fate il contrario? Cioè diteci i nomi e noi li sottoponiamo? Perché noi siamo un movimento innovativo e comunque non proponiamo sempre lo stesso schema per arrivare al nostro obiettivo. Il nostro obiettivo comunque è di chiarezza e comunque di avere un Presidente della Repubblica vicino ai cittadini. Dopodiché la metodologia utilizzata la volta scorsa sono state le Quirinarie. Ovviamente la scacchiera anche politica era diversa, non c'era Renzi che comunque in qualche modo rappresentava un referente preciso che potesse fare dei nomi chiari, e quindi abbiamo utilizzato quel tipo di schema. Adesso lo schema è diverso, ma l'obiettivo è lo stesso. E quindi, se non faranno dei nomi, come è presumibile, voi che fate? Starete alla finestra, cioè non sarete decisivi in questa votazione, Presidente? Non... Guardi, noi siamo opposizione, quindi indipendentemente da tutto, purtroppo... Beh, anche Forza Italia, volendo, sì, è opposizione. Però se Renzi può coinvolgere, come lei ben sa, 2/3 del Parlamento, e quindi avere, come lui va dicendo, coinvolgimento delle forze politiche più ampio, oppure chiudersi a riccio nel suo patto con Berlusconi. Quindi se lui intende chiudersi a riccio nel suo patto con Berlusconi, noi ne prenderemo atto e sicuramente non voteremo un presidente come Amato, il quale, per esempio, che è un nome che gira nel tracciato, sì, del Nazareno, che ha fatto un prelievo forzoso, tanto per dirne uno, secondo i correnti nel 92, che ancora gli italiani se lo ricordano. Probabilmente vorranno fare lo stesso scherzo, perché il debito, poiché i risparmi privati sono una delle poche cose purtroppo che rimane a questo paese, noi francamente un presidente che soltanto ricorda questo non possiamo proprio, diciamo, appoggiarlo. Ma quindi Amato no, ma degli altri nomi che circolano, lei personalmente ha delle idee? Cioè c'è qualcuno che, non so, cioè, si parla di Prodi, Mattarella, Fassino, Padoan, si parla di una serie di persone, la Finocchiaro. Se devo fare proprio una scelta personale, che ovviamente poi valgo quello che valgo, preferisco sempre nomi innovativi, ovviamente, che spezzino un po' lo schema. E quindi i nomi non ne vede? Diciamo che aspettiamo a vedere bene quali sono questi nomi. Di quelli usciti per ora, quelli usciti sui giornali, ufficiale non c'è niente, però li avrà letti anche lei, quelli che circolano. Sì, di quelli usciti sui giornali, ci sono alcuni che mi convincono per niente, altri che, insomma, su cui si potrebbe ragionare. Per esempio, c'è uno sulla quale lei ragionerebbe, onorevole? Sì, però non vorrei anticipare, perché non voglio... diciamo la verità, guardi, noi possiamo essere sinceri, i nomi li deve fare Renzi, dopodiché una volta che abbiamo proposto i profili, poi da lì si ragiona, perché se adesso io le faccio un nome, sicuramente quel nome sarà bruciato. Io non intendo bruciare proprio il migliore, magari, o eventualmente quello che potrebbe essere. Questa cosa è molto italiana, ma perché lei vabbè, è in politica da poco, in Parlamento, ma ha capito perché c'è questa cosa per cui se uno fa un nome, questo nome è bruciato? Perché siamo superstiziosi? Perché... No, perché guardi, noi proponiamo tantissime cose molto giuste per i cittadini, a volte ci vengono vicino i partiti, il PD anche, e per esempio, non so, abbiamo fatto delle proposte riguardanti l'IMU, l'IMU sui fabbricati, sull'IMU agricola, ma tantissime che anche interessano alla maggioranza, e dicono, poiché ce l'avete proposta voi, non ve la possiamo appoggiare. Quindi se lei dice, se fa un nome, lo faccio io del Movimento 5 Stelle, allora per ripicca automaticamente non va bene agli altri. La vogliamo chiamare ripicca, la vogliamo chiamare gioco politico, la vogliamo chiamare occhi dell'opinione pubblica che devono essere in qualche modo. E questa è la risposta, alla fine bisogna anche adeguarsi un po' a alla risposta che ti darebbero, non allo schema, ma quantomeno alla risposta. Se vogliamo ottenere il risultato di partecipare, a questo punto facciamo le cose che sono utili, cioè aspettiamo i nomi e poi li sottoponiamo al giudizio, alla valutazione dei vostri elettori. L'ultima domanda è questa, onorevole Ruocco: sarà questa la settimana, secondo lei, la previsione in cui avremo il Presidente della Repubblica? Si inizia a votare, lo ricordo, da giovedì pomeriggio, oppure si andrà avanti alla successiva settimana? Una domanda non facile. Penso che si metteranno d'accordo e il nome probabilmente lo faranno per il Presidente verrà eletto alla quarta votazione, ma questa è una mia previsione. Si metteranno d'accordo, quando lei dice d'accordo vuol dire Renzi e Berlusconi. Comunque quello che voglio voglio sottolineare che il Movimento 5 Stelle è un sì, non è un no, è un sì all'apertura, è un sì alla partecipazione, è un sì al coinvolgimento, non stiamo chiudendo la porta in faccia a nessuno, anzi le nostre porte sono aperte, tanto è vero che non ci andiamo a chiudere in un palazzo ma in una piazza. La ringrazio, buona giornata. Grazie, ovviamente l'onorevole Carla Ruocco. Buongiorno. Del Movimento 5 Stelle. Il traffico 24 mattino. Siamo qui, sono le 8.51, vorrei dare la parola ad Ado da Milano che voleva intervenire sul tema università di prima. Buongiorno Ado. Pronto? Buongiorno. Sì. Sì, io volevo soltanto dare il mio parere sulla questione dell'obbligo dell'inglese, sì, al Politecnico di Milano. Io insegno progettazione architettonica urbana. Per insegnare questa materia al Politecnico, ovviamente parlo in italiano, nel senso che ci sono materie che non è facile trasferire a studenti italiani in una lingua straniera. Peraltro io insegno in inglese assolutamente con facilità quando insegno all'estero come visiting professor, quindi sì. non ho assolutamente né un problema di lingua né un problema di... Mi faccia capire, secondo lei è giusto mantenere comunque l'italiano parallelamente o... Io trovo che sia giusto lasciare la possibilità di scegliere, cosa che c'è già, nel senso che noi abbiamo nella Facoltà di Architettura di Milano una serie di corsi in inglese che gli studenti possono scegliere di seguire. Io ho in genere, come i miei colleghi, ogni anno più di 50 studenti per corso, prevalentemente italiani, e parlare con loro in inglese, quando peraltro magari non sono nemmeno abbastanza preparati, sarebbe un danno per il risultato. No, ma è molto, io è trovo, molto che, trovo che non sia corretto imporre a tutte le facoltà all'interno del Politecnico, forse non è stato detto, non ho seguito tutta la trasmissione, la maggioranza delle facoltà, delle scuole all'interno del Politecnico sono di ingegneria e quindi c'è una ragione, gli ingegneri trasferiscono, comunicano cose diverse da quelle che comunica la facoltà di architettura. Vabbè, ma Ado, scusi, la sua posizione è chiara, perché sennò rientriamo e facciamo una lezione come lunghezza. La sua posizione è chiarissima, per lei è sbagliato dare un'esclusiva dell'inglese, quindi è giusto mantenere anche la possibilità che si insegni in italiano. Ma siamo al nostro momento conclusivo. Ciao Italia! Siete pronti? Al momento in cui, come sapete, invitiamo un nostro ascoltatore, ascoltatrice che ci segue dall'estero. Oggi andiamo veramente lontano, lontano, lontano. Voglio salutare Ilaria. Buongiorno Ilaria, anzi buonasera dovrei dire, credo. Sì, buonasera Milan. Dove sei Ilaria? Dove ti trovi? A Nagasaki in Giappone, Nagasaki. Fantastico. E cosa ci fai? Sei lì con la famiglia, dicevi? Sì, siamo qua in quattro, io, mio marito e i due figli. Siamo venuti qua nel aprile 2012 perché mio marito è stato trasferito per lavoro. Ah, e com'è il Giappone? C'è stata una scelta felice? È stata una proposta che noi abbiamo accolto felicemente, sì. Perché del Giappone mi affascina tantissimo il Giappone, perché chiunque sta in Giappone dice guardate che è un paese fantastico ed è assolutamente il contrario di tutti gli stereotipi che voi potete immaginare sul Giappone. È davvero così bella? Nagasaki è una bella città? Allora, è bello come sembra perché è appassionato, poi insomma sì, è bello vivere in Giappone, sono educati come sembra, sono puliti, è un posto pulito dove vivere, rispecchia tutti gli stereotipi in realtà secondo me. Poi però tutte queste belle apparenze, dei lati negativi ovviamente. Come tutti i paesi, certamente. Sì, esatto. Quindi sì, si sta bene e ogni tanto... Si maledico, per una giornata intera lì si odia, poi passa. Come in Italia. Senti, Ilaria, tra l'altro in Giappone ti usiamo come cronista. Sai che so che c'è una situazione molto difficile. Ci sono due giapponesi, uno dei quali peraltro è stato ucciso in Iraq, e uno ancora si parla di ore importanti per la liberazione a trattare. Se ne parla, immagino, nel paese, no? In tutte le TV, in tutti i giornali. Allora, la cosa interessante in realtà è che ho fatto fare il sistema caldo, ho fatto fare un sondaggio in ufficio al marito, ammetto. E, in realtà la cosa interessante è che non se ne parla tanto, proprio perché essendo ancora il governo in trattative, cercano di lasciare poco spazio ai media, poco spazio alle chiacchiere, lasciano che il governo tratti, loro sono molto rispettosi in questo, quindi cercano di lasciare che il governo lavori per ottenere insomma almeno la liberazione di uno dei due. E infatti, senti Ilaria, ma è bellissima questa cosa, dici che cosa rimpiangi dell'Italia da lì, da lontanissimo, da Nagasaki? Il formaggio. Mandiamo subito del formaggio. Penso che sarebbe la prima risposta di entrambi i miei figli e probabilmente anche di mio marito. No, scherzi a parte, le amicizie, il calore con cui si vivono i rapporti, il scendere in piazza e trovarsi e salutarsi, qui è un po' più freddo. Però ci sono troppi servizi che rimpiangerei del Giappone, una volta in Italia, quindi per ora siamo qua. Per ora state lì. Intanto mandiamo un grandissimo abbraccio, ovviamente, abbraccio a te Ilaria, a tutta la tua famiglia, a tutto il Giappone. Ci seguite da Nagasaki, come molti di voi dal mondo, scriveteci 24 mattino at radio24.it se ci seguite dall'estero e noi vi manderemo in onda. A domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.